In sto mondo moderno, non c'è più religione. Siamo tutti egoisti, mi fa il primo ciuga. Ma volia, un po' di umanità, ma volia, un po' di umanità. Se rincorre le robe che valor non le ga, se fa massa per niente, per le volontà sporche, ma buria. Un po' di umanità, ma buria, un po' di umanità. Massa oltre me temo di più in testa la gente, e magari in passato ti ha dato una mano, ma buria. Un po' di umanità, ma buria, un po' di umanità. Ma una roba mi credo che non siamo mia mostri, se tratta solo di tirar fuori la nostra umanità, la nostra umanità.